sono anche giorni belli intensi, perché insomma manca pochissimo al Miami. Che aria si respira? Veramente. Ma che aria si respira? Si respira aria da, come dire, da cosa grossa, da cosa memorabile, da cosa abbastanza importante, ma anche da cosa molto complicata, che quindi va gestita con grande lucidità e buon senso. Perciò sono giorni di lavoro, qui si litiga per le ultime volte con gli artisti prima di amarsi dentro il festival. Sono giorni in cui si cerca di spingere tutto quello che ha bisogno di essere spinto, cioè la musica nuova, le giornate magari che hanno artisti meno conosciuti. Mm-hmm. E poi sono giorni di grande entusiasmo, perché abbiamo una voglia pazzesca di vedere realizzato questo festival a cui stiamo lavorando da ormai quasi un anno, quindi c'è tanta voglia. Okay. Ma te ne senti sul gruppone i 15 anni di edizioni? Ah, dai, ce li portiamo bene, no? Sì, cioè, sì, direi sono andati ottimamente, sì. Ce li portiamo bene, non li sento sul gruppone, anzi, sono anni che ci portano a essere magari addirittura più leggeri in alcune cose, perché a volte l'esperienza ti dà molta più lucidità su alcune problematiche, alcune questioni. E il punto chiave è ogni anno rilanciare la sfida, quindi ogni anno c'è un momento in cui io mi chiedo, mentre sono nel mezzo della lavorazione del Miami, mi chiedo: ma perché lo sto facendo? Delirio puro. Ma come mai? Ma perché io mi ostino in questa cosa? E poi piano piano ricapisco ogni anno, volta dopo volta, che è una cosa che vale la pena di fare, è una cosa che dà il senso a tutto il resto, ed è una cosa che soprattutto si realizza nel momento in cui vedo la gente contenta dentro il festival. Meraviglia. Quindi è proprio vero che l'amore vince su tutto, ed è anche questo, tra l'altro, il motto del festival. Ce lo racconti un po'? Ma, amor vincit omnia, anche se sarebbe forse più corretto dire omnia vincit amor, ma forse no, perché abbiamo deciso di usare la versione errata, diciamo così, come nel quadro di Caravaggio. Perché? Perché? Perché l'errore in realtà è ciò che ci rende umani in questo medioevo digitale, in cui la peste dei social diffonde meme, fake news e pestilenze, appunto, che si trasformano in atti di disumanità abbastanza evidenti. E il momento in cui la spersonalizzazione dei rapporti in realtà è palpabile, ecco che l'errore forse è quel cortocircuito che permette di aprire una ferita, in quella ferita ci inseriamo noi con una cosa che si chiama festival, che ha il suo senso nel farlo assieme, quindi nel farlo in un posto con tanti altri, è quella sorta di energia e di sovrapposizione di fatti, cose, persone che moltiplica la vita. Sì. E quindi il senso della frase è questo, il senso del tema di quest'anno è questo. Di fronte alle tempeste digitali, agli sciami digitali, agli shitstorm e via dicendo, di fronte alla bruttezza di quello che leggiamo, che accade nei nostri paesi, nei nostri mari, ecco che l'amore forse riesce a risolvere tutto. E quindi amor vincit omnia. Un bellissimo messaggio. Guarda, sì. Carlo, a me ha colpito un sacco leggere che appunto questi 15 anni hanno portato anche, come dicevi tu prima, a crescere in maniera lucida e in maniera sostenibile, no? Quindi non una spasmodica ricerca dell'esagerazione, ma passetto dopo passetto. Quindi qual è la parola chiave, insomma, per un direttore artistico riproporla ogni anno? Insomma, quali sono gli ingredienti fondamentali? Ma bisogna un po' avere senso rispetto a quello che stai facendo. Bisogna essere consapevoli di ciò che fai, nel senso del tema di cui stai parlando, della musica di cui si stai occupando, degli artisti che stai invitando a suonare. E dopodiché ogni anno bisogna desiderare qualcosa che pensi sarebbe stato impossibile avere. E quindi unire un po' questa dialettica che hai con il mondo, quindi la capacità di organizzare le cose, la parte più pragmatica, con invece una parte di visione che più ha a che fare con il desiderio, con il sogno. Quindi la maniera per rendere sostenibile è guardarsi allo specchio e dire: ok, siamo questi, abbiamo queste mani, possiamo farlo così. E se vogliamo farlo in una maniera diversa, dobbiamo arrivarci. Quindi capire come arrivarci, questo senso della sostenibilità, che poi in termini pratici si realizza con il fatto che siamo una realtà comunque indipendente, che ha sempre fatto le cose con le proprie forze, che ha rischiato sulla propria pelle, perché ricordiamolo, se va male un anno non è che c'è qualcuno, non c'è il papà che paga per te o non c'è la banca che ti salva, c'è il tuo portafoglio che va, come dire, aperto e hanno tirato fuori i soldi, quindi c'è un senso di un rischio di impresa che è un valore comunque, soprattutto in questo paese dove l'impresa culturale non è un dato di fatto sicuramente, però c'è anche la gioia, la bellezza di farlo, cioè noi siamo contenti di fare questa roba qua e nessuno ce lo può togliere. E si va avanti. Senti Carlo, ma chi meglio di te chiedere questa cosa? Noi abbiamo notato che c'è stata una crescita, un cambio, una mutazione nella musica italiana in questi anni e gli emergenti degli anni passati sono diventati i nuovi headliner. Guardo un Franco 126 come ad esempio anche un Mahmood, no? Che ha vinto Sanremo. E tu cosa pensi? Perché abbiamo notato, l'anno scorso abbiamo girato tanti festival, che tanti purtroppo quest'anno hanno dovuto chiudere i battenti. Mi riferisco tipo al Wow Festival di Como, al Futura di Viterbo, insomma tante piccole realtà che purtroppo non sono riuscite a sostenere questo cambio, no, delle agenzie di booking e questi nuovi prezzi. Tu da direttore artistico comunque hai 15 anni cavoli di esperienza con il Miami, cosa pensi di questo? Ma innanzitutto su Wow, mi spiace molto per Wow, ma sono contento perché il buon Leopoldo, che era uno degli organizzatori, ora lavora con noi, quindi piccolo dettaglio a margine, al netto di questo. Sicuramente quella che viene chiamata la cosiddetta bolla dei cachet, cioè nel senso i festival che hanno sempre, diciamo, hanno sempre rappresentato la rete estiva attraverso cui gli artisti si esibivano in giro per l'Italia, facevano gavetta, come si diceva una volta, quindi diciamo costruivano un tessuto musicale live che era importante per il paese, è venuto a mancare perché a un certo punto coloro i quali con un cachet accettabile, diciamo cachet accettabile per festival che sono tendenzialmente quasi sempre amatoriali, cioè che non hanno una grande struttura professionale, che non possono permettersi, diciamo così, un certo tipo di budget, che non hanno magari biglietto d'ingresso e via dicendo. Ecco, quei festival hanno sofferto molto questa esplosione della musica italiana che una volta era considerata, diciamo così, di serie B, cioè era la classica musica indie che con un piccolo cachet potevi portarti a casa. Quindi sicuramente i festival hanno dovuto si sono trovati impreparati di fronte a questo grande cambiamento, che però ha permesso obiettivamente a molti artisti di trasformare la musica in un lavoro. Io penso che la bolla dei cachet non sia una bolla nel caso in cui un artista che si esibisce produce dei numeri tali per cui motiva l'alzamento del suo cachet, ovvero se io vado in un posto e faccio 2500 persone, quelle 2500 persone pagano 20 euro di biglietto e sono contenti di aver pagato 20 euro di biglietto per aver visto il mio concerto. È sbagliato che io esca ancora la cifra di quando avevo invece 18 anni e le persone erano 10 e non 20. Certo. Cioè, se tu sei capace di portare pubblico in un posto, è giusto che guadagni dei soldi. I soldi che stai facendo guadagnare al promoter sono i soldi che devi guadagnare anche tu. E quindi non credo che sia una bolla. Si tratta semplicemente di un assestamento di un mercato molto appetibile adesso anche per le grandi major della musica internazionale, che ovviamente facendo un certo tipo di investimento hanno alzato le pretese degli artisti, perché se io sono una multinazionale, sono pieno di soldi e vedo attorno a me che c'è interesse per una cosa, arrivo, piazzo un assegno sul tavolo che per me non è niente e posso fornire alla band in questione, all'artista in questione, soldi che probabilmente nella sua vita non aveva mai visto. Questo ovviamente cambia un po' tutto. Io sono convinto che però più le cose vanno in una certa direzione, più si crea uno spazio vuoto, che è anche uno spazio ignoto, in cui in realtà tutto ciò che è fuori dal mercato può avere tempo e modo, può essere la fase di cultura giusta per chi invece dentro il mercato non c'è. Cioè per tutto ciò che obiettivamente nasce e cresce dal basso. Quindi questo è un momento in cui le cose stanno così, ma nulla vieta che nel giro di 2 o 3 anni si ricrei una scena underground, alternativa, tutto quello che vuoi, completamente inaspettata, che ci sorprende con un linguaggio, uno stile completamente diversi di quelli che oggi diamo, rispetto a quelli che oggi siamo abituati ad ascoltare. Quindi è soltanto questione di tempo, e secondo me anche i festival, diciamo così, che oggi hanno sofferto, torneranno in altra veste, perché organizzare le cose con altre persone è un valore del nostro tempo, gente non si tirerà indietro di fronte a questo.